Oggi nella diocesi ambrosiana celebriamo la festa di Cristo, Re dell'Universo, che conclude l'anno liturgico. Nel paese accanto a noi, anzi siamo circondati a 2 o 3 chilometri, c'è il rito romano. E quindi se per caso qualcuno andrà lì in queste chiese, si accorgerà che faranno la stessa festa tra 2 settimane. Perché l'avvento ambrosiano dura 2 settimane in più. Ecco. Che cosa vuol dire celebrare alla conclusione dell'anno liturgico la festa di Cristo, Re dell'universo? È semplice, perché la Chiesa dalla prima domenica, che è la domenica di avvento, all'ultima domenica, che è questa, condensa tutta la sua fede, che è Gesù. La condensa in un anno. Forse ricorderete che ve l'ho già detto l'anno scorso e lo ripeterò anche domenica prossima, che il cristiano o fissa gli occhi su Gesù, se no non si illuda di avere fede. Avrà un po' di religione, avrà un po' di sentimentalismo religioso, ma la fede è guardare in faccia Gesù, la fede è essere legati a Gesù. E allora la Chiesa in tutto l'anno ci condensa in queste 50 tappe che sono le domeniche di un anno, ci condensa tutta la vita di Gesù. E la conclude con questa festa. Cosa vuol dire concludere la festa di Gesù come Cristo Re dell'universo? È per dire che lui riassume in sé tutto il potere, tutta la realtà del mondo. Oggi non si usa tanto più parlare di regalità, viviamo in regimi repubblicani, democratici. E tuttavia la Bibbia è piena di questa terminologia. Venga il tuo regno, sta scritto addirittura nel Padre nostro. E se voi ripensate quante parabole Gesù ha detto, avviene per il regno dei cieli come, e diceva la parabola. Dunque dobbiamo capire cosa vuol dire il regno di Dio e cosa vuol dire che Gesù è il re dell'universo. Vuol dire che il destino dell'umanità ce l'ha in mano Lui. Non abbiamo paura, amici, di come va il mondo. Oggi c'è una paura diffusa in tutto. Basta che senti uno che starnutisce, poi non mi attacchi mica il virus, eh? Mamma mia, che scarsezza di umanità ormai c'è in giro. Difendiamoci, stiamo attenti, la prevenzione assolutamente, ma amici, noi abbiamo anche un altro destino, pur dovendo difenderci bene su questa terra. Ecco, e questo è il nostro destino, è nelle mani di Gesù Cristo. E oggi la liturgia ci parla abbondantemente di Gesù Cristo, Re dell'universo, ma ti dice stai attento a seguire Gesù. È bello, è stupendo, perché nessuno ha parole come le sue. E questo forse dobbiamo riscoprirlo tutte le volte. Dovremmo cantare anche a lui. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Ma dovremmo davvero dirglielo se noi lo sperimentiamo. Ma è anche un Dio che ci porta sulla croce, non dobbiamo mai dimenticare questo. Altro che dire, ma io sono arrabbiata col Signore perché mi ha dato questa malattia. Cioè, ma guarda un po' il crocifisso, cosa doveva dire Gesù Cristo? A Dio Padre, no amici, La fede cristiana è meravigliosa ed è tremenda. E quando diciamo che Gesù Cristo regna dalla croce, l'abbiamo cantato, eh? Dal legno della croce regna il Signore, diceva il ritornello del Salmo responsoriale. E l'Alleluia diceva, io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E la seconda lettura a Filippesi, capitolo 2. Egli fu obbediente fino alla morte di croce, per questo poi Dio l'ha esaltato e l'ha risorto. Però fin qui, amici, noi possiamo continuare ad andare avanti a fare belle riflessioni. Dobbiamo però chiedere a Dio la grazia che tutto questo entri dentro nella nostra vita, ed è la cosa più difficile del mondo. Ce lo dimostra la malattia, ce lo dimostra la morte. Io però voglio raccontarvi un esempio che è capitato a me negli anni 70, in cui ho visto la croce confrontata in una maniera visibile con la morte. Ero andato sulle Dolomiti con un gruppo di ragazzi della mia parrocchia. Abbiamo fatto una bellissima gita, se voi siete pratici, sopra il lago Juribrutto si va alla cima Bocche, sopra il passo San Pellegrino. È 360 gradi di panorama. Per quello nella Grande Guerra lì avevano fatto una delle trincee più esposte. Arrivarono su quella cima che si estende come un leve declivio, come un bel spazio grande come alcuni campi di calcio, avevano fatto le trincee, i due opposti eserciti, e venni a sapere che tra una trincea e l'altra c'erano solo 50 metri di distanza, tiro di sasso. Io arrivo, sto guardando, sto ammirando con questo gruppetto di ragazzi. E vedo che c'è lì per terra una croce in ferro che deve essere rizzata in piedi ancora, no? C'era il basamento. Mentre siamo lì e diciamo, ammiriamo la bellezza, vedo che arriva su una pattuglia della Polizia di Stato, in divisa, con dei cani, erano, credo, in allenamento cinofilo. Arriva su, il graduato si avvicina. Io ero in borghese perché in montagna non vado con la veste da prete e comincia a parlare contro le croci. Ecco qui un'altra croce che devono mettere in piedi, ma ci hanno riempito le nostre montagne con ste croci, ma quando le tireranno via? Allora io mi manifesto come sacerdote e questo resta un po' perplesso, insomma, tenta un passo indietro e dice. Dovrebbero portarle su almeno come hanno fatto i nostri vecchi a spalla, non con l'elicottero. Allora io gli faccio, guardi, quando io diventerò papa, toglierò via tutte le croci da tutte le cime delle montagne, a patto che quando lei diventerà presidente della Repubblica Italiana, faccia chiudere tutte le trincee che ci sono in giro sulle montagne, per riportarle come Dio le ha create. E poi no, gli ho detto. E poi lei non farà chiudere niente, perché io voglio portare su questi miei ragazzi a fargli vedere la stoltezza dell'uomo che sale su a quasi 3.000 metri, 2.000 e rotti, con la neve, con il gelo o col sole che ti brucia, per ammazzare il suo simile. Ed è tanto più bravo e riceve encomi quanto più è capace di fare azioni rischiose e tremende per l'esercito nemico. Lasciamo sulle trincee, sulle nostre montagne. Guardate, c'erano lì ancora dei pezzi di filo spinato e ho visto anche qualche scatoletta, probabilmente di cibi in scatola, fin da allora. E lasciamo sulle croci. Perché se togliamo via la croce, veramente la vita dell'uomo diventa una aberrazione. Lo è già in tanti momenti, ma almeno guardando la croce e vedendo come Gesù Cristo regna sui nostri cuori. Ma potremmo star qui, amici, a ragionare anche per gli ammalati. Io ricordo. È la croce, amici, che non manchi mai nelle nostre case. Una donna mi diceva: mio papà era grave, si stava spegnendo, si sta. E io ero lì accanto al suo letto, non sapevo che cosa fare, non sapevo cosa dire, cosa dici? A un certo punto, succomò, vedo che c'è lì un crocifisso, uno di quelli che una volta si usavano col basamento che lo tiene in piedi. Prendo il crocifisso. Vado lì dal papà, glielo faccio vedere davanti e lui stende le due mani ossute, lo prende e si mette a baciarlo. Sta morendo e questa donna ha incrociato la sua fede e quest'uomo manifesta la sua fede, ma se toglie via il crocifisso cosa ci resta, amici? Eppure nel mondo, eppure nella nostra vita. Quanto vilipendio al crocifisso. Andrei avanti fino a domani, ma se Dio ci concede tempo, ragioneremo altre volte su come c'è in giro nel mondo. Se dico Sirochi Brog, andate a guardare su internet cosa vuol dire, nella ex Jugoslavia, dove hanno ammazzato uno sull'altro 44 giovani francescani perché non hanno voluto calpestare la croce, i nostri compagni comunisti di Tito. Gli ha messo lì una croce, calpestala. No, pam, colpo. 44, uno sull'altro. Cos'è la croce, amici? Cristo regna dalla croce. Celebriamo questa messa che è questo, è il trionfo di Cristo nella nostra vita, perché non sia solo poesia o letteratura, ma che possa essere il nostro bacio a questo crocifisso quando siamo con gli occhi quasi davanti a Lui.